better man, a better man. Yeah. Eclettica si è aperta con un brano assolutamente nuovo ed è proseguita invece con l'unico, visto che ho scelto un brano bello lungo, l'unico spazio di profumo di Eclettica, cioè andare a ripescare nelle vecchie playlist degli anni passati i brani che appunto hanno caratterizzato quelle playlist, per far ritornare un certo senso di nostalgia a chi quelle trasmissioni ascoltava e faccia scoprire com'era Eclettica chi invece ancora non sa come quell'Eclettica fosse di qualche anno fa, quindi soprattutto i nuovi ascoltatori. Il gruppo in questione, quello che ci siamo ascoltati, fa di nome Brian Jonestown Massacre, e quando si usa il termine morriconiano non si sbaglia in questo caso per You Look Great When I'm Fucked Up, titolo del brano che è la traccia numero 9 di And This Is Our Music. L'anno era il 2002. Invece l'anno 2006, quello per l'esordio italiano di Marty Buying Things From Your Past, sono una formazione capitanata da Andrea Bruschi, figura nota a livello anche internazionale per aver partecipato nelle vesti di attore a numerosi film, ed ora per una produzione svizzera, la Wildside Media, su etichetta Green Fog Records, con produttore artistico Paolo Benvenu, si è dato anche alla canzone, con risultati direi assolutamente non spiacevoli. Unmade Beds è il titolo dell'album dal quale noi ci siamo ascoltati il brano Buying Things From Your Past. E proseguiamo con i brani che sono relativamente nuovi all'interno di Eclettica, una delle ultime produzioni Sub Pop, ha qualche settimana sulle spalle la produzione dei The Thermals, che arrivano al nuovo album The Body, The Blood and The Machine, dal quale ci ascoltiamo la traccia numero 4, A Pillar of Salt. Per arrivare a timbrare il cartellino d'entrata alle 8:30 precise, Fantozzi, 16 anni fa, cominciò col mettere la sveglia alle 6:15. Oggi, a forza di esperimenti e perfezionamenti continui, è arrivato a metterla alle 7:51. Vale a dire, al limite delle possibilità umane. sick of the cynical. I'm sick of the fashion show. A vapid and overblown. Someone, someone tells me I ought to know. I wouldn't stay around if the money let me linger on till the end of December. And waste another year like a minute trying to forget. Cause I remember my home. I go back with cap in hand and launder the bed I made. Hurtful things said, pick up where I began. The penny lost its shine. Dirty ankles on the promenade and rubber flip-flop sandals. Give me back the rags, the neurotic and the sweet lament. Can't handle it. I'm gonna take a lover, gonna take her back to Somerville. Show her around the neighborhood, recase the place and settle down. Gonna take a lover, gonna take her back to Somerville. Don't care if she's pretty as we leave Suck City, yeah. And settle down. Gonna take a lover, gonna take her back to Somerville. Don't care if she's pretty as we leave Suck City. Gonna take a lover, gonna take her back to Somerville. Show her around the neighborhood, recase the place and settle down. Gonna take a lover, gonna take her back to Somerville. Don't care if she's pretty as we leave Suck City, yeah. Il nuovo dei Pernice Brothers, che esce per Ashmont Records e ha una distribuzione a livello mondiale grazie alla One Little Indian. Ci siamo ascoltati Somerville da questa Live a Little, album che già era stato anche oggetto di pillola proprio ad inizio di settimana, la prima pillola della settimana, in compagnia di Giulio Caperdoni. Avete sentito qual è stato il primo incipit di questa settimana, avete anche sentito qual è il film che perlomeno per questa settimana ci terrà compagnia, e l'inizio di stagione è caratterizzato da film italiani. Poi il giudizio sulla grandezza o meno di questi film è assolutamente soggettivo. Ora note che state imparando a conoscere, alcuni fra voi, esattamente come me, stanno imparando ad innamorarsi. No, forse imparare ad innamorarsi non sta molto bene. Non sono due verbi, imparare e innamorarsi, che possono andare assieme. In molti si stanno innamorando di questi I Like Trains con Terranova. These men to the Fino all'ultima goccia di musica avrei dovuto cominciare a parlare una manciata di secondi fa, ma non ce l'ho fatta. Ho lasciato finire il muro di chitarra e la voce baritonale degli I Like Trains con Terra Nova, e ora lasciamo lo spazio a quello che è l'ultimo brano della prima parte di Eclettica di questa settimana, un esordio su lunga distanza che si chiama anche come l'EP che l'aveva preceduto, The Magnetic Tapes, da parte di Erland Ropstad, artista norvegese che incide per la Rack 90, e ci fa ascoltare Winona and I. I had only known Winona, I would have had my chance to tell her, don't let them bastards get the best of you. I bet you got the strength to pull you through. I had only had her number, I would have called her up and talked to her. She could have told me how she's holding up. We would have talked about the days we had not long ago. We were all so young, you know, we did not know what to do or what to become. But look at us, girl, yeah, we're still young enough. I know now we know now. We'll be right back. Eclettica. Fine della prima parte.